appoggio, si apre così in questo splendido palcoscenico questa 31ª edizione del Taglio di Feltre, ma anzi si entra nel vivo direi.